Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. L'evasione impossibile di Sant'Enotar Nicola. Parte prima. Sono nato a Castellaneta, nel Tarantino, il 15 dicembre 1938. Anni tristi, anni di fame per il Sud. Il fascismo, la guerra d'Africa, la guerra di Spagna, non avevano risolto nulla, avevano succhiato solo uomini. E la guerra mondiale era già nell'aria. Castellaneta è nell'entroterra, a una trentina di chilometri da Taranto. Uno di quei paesoni agricoli tipici del sud, né villaggio né città, poverissimi, ricchi solo di bocche da sfamare. Case vecchie, una sola strada decente, in mezzo al paese. Qualche villetta dei notabili, le sanguisughe. In campagna i miei nonni lavoravano ancora con l'aratro, a braccia. L'unica industria era l'emigrazione. Il fascismo provò a sostituirla con la guerra. A casa, invece delle rimesse degli emigranti, cominciarono ad arrivare le poche lire sottratte alla Deca. Il paese era noto nel mondo per una sola gloria, Rodolfo Valentino. Ma i dirigenti locali non seppero sfruttare neppure quella, puntando sulle americane fanatiche dell'amante latino. Mio padre era figlio di contadini. I nonni conducevano a Mezzadria una cascina a Lizzano, un altro paesone come Castellaneta. Di tanto in tanto anche mio padre andava a lavorare nella cascina dei vecchi. Ho ricordi molto vaghi di quel tempo, almeno fino al giorno in cui mio padre se ne andò con una vicina di casa, anche lei sposata. Tra tutti e due abbandonarono una decina di figli. Come è costume dalle mie parti, queste cose toccano il limite della tragedia. Il disonore ricade su tutta la famiglia, figli compresi. E naturalmente è la parte più debole, la donna e i figli, che ne porta il peso maggiore. Per me fu un colpo duro. Mio padre era estremamente severo. Tra lui e noi non ci fu mai confidenza, ma distacco. Nel paese era uno dei pochi che metteva la camicia bianca. Si dava un contegno, ci teneva a dimostrare che era un educatore rigido. Quando se ne andò non perse il mio affetto, che non aveva potuto nascere, ma il mio rispetto. Tutta la sua austerità era naufragata miseramente. Mia madre non trovò lavoro. I pregiudizi erano troppo forti. Non venne assunta neppure nell'unica azienda del paese che era diretta da un suo zio. Anzi, fu proprio lui ad opporsi. Temeva il pettegolezzo e così mia madre dovette andare a Torino con l'aiuto di una sua sorella che sposandosi era andata là. Trovò lavoro come cameriera. Io fui spedito in un collegio a Bari. I due figli più piccoli rimasero al paese con la nonna materna. Così la famiglia unita andò a Ramengo. Avevo 9 anni, ero stordito, mi era cascato il mondo addosso. Non me ne rendevo conto perfettamente, ma sentivo di essere solo. In collegio cominciavo a capire di essere diverso dagli altri, quelli che venivano a scuola come esterni. Già l'iscrizione all'ingresso mi era suonata male, istituto per l'infanzia abbandonata. Il collegio si trovava in uno dei quartieri più popolari di Bari, in Corso Sicilia. Era gestito da suore. Ogni mattina, accompagnati da una monaca, ci recavamo in una scuola delle vicinanze. Mi ricordo certi sguardi di commiserazione dei passanti, che ci riconoscevano dalla mantellina. Sarebbe stato meglio essere guardati con indifferenza. Certe cose lasciano il segno. Ancora oggi, dopo tanti anni in carcere, pensare a quell'istituto mi dà un senso di soffocante repulsione. Soprattutto mi ricordo la fame continua, ossessiva, insaziata. C'era sempre troppo poco da mangiare. Il pensiero di mettere qualcosa nello stomaco ci accompagnava per tutto il giorno. Uno degli episodi che mi tornano alla memoria è quello della prima comunione. Preparazione accuratissima per ogni dettaglio. Le suore continuavano a ripeterci che quello sarebbe stato il giorno più bello della nostra vita. Il giorno della cerimonia vennero i parenti di quasi tutti i ragazzi che ebbero il permesso di uscire dal collegio per una giornata. Rimanemmo dentro in una decina. Poi vennero alcune donne del rione. Ognuna si prese un bimbo per portarlo fuori qualche ora. Rimasi solo. Quel giorno fu tale l'amarezza che giurai a me stesso di non farmi cresimare in collegio. Mantenni la promessa. Fu la mia piccola vendetta. Tra noi c'erano ragazzi difficili. Le suore vedevano in loro una minaccia all'ordine, al clima di obbedienza. Provarono con le botte, ma non ottennero risultati apprezzabili. Allora si rivolsero ai militari. Alla messa domenicale, nella piccola chiesa dell'istituto, interveniva sempre un ufficiale dell'esercito, accompagnato da un sergente. Questo ufficiale era trattato con ossequioso rispetto dalle monache e quindi forzatamente da noi. Ci veniva presentato come un benefattore. Costui risolvette a suo modo il problema dei ragazzi difficili. Dopo la funzione religiosa, noi più grandicelli venivamo condotti in un camerone, dove l'ufficiale ci imponeva violenti esercizi di ginnastica, punendo i meno diligenti con scapaccioni e cinghiate. Un altro episodio che mi colpì profondamente fu quello della lezione che le suore impartivano ai bambini che bagnavano il letto. Un mattino ci fecero mettere vicino al lavatoio, con le mutandine ancora umide sulla testa, a mo' di cappello. Io con altri quattro miei compagni rimasi lì al freddo, alla presenza degli altri bambini che sghignazzavano. Finalmente, terminate le elementari, fui dimesso dall'istituto. Speravo di poter andare a Torino da mia madre, invece mi mandarono in un altro collegio, poco distante dal primo. Si trattava di una serie di baracche di legno leggero, residuati di guerra, abbandonati dalle truppe alleate. Sembrava più un campo di concentramento che un complesso scolastico. Invece funzionava come scuola di avviamento professionale. Era il noto villaggio del fanciullo. Vicino si stava già iniziando la costruzione della nuova sede, oggi un grandioso edificio. I nostri educatori erano i padri rogazionisti e devo ammettere che la disciplina era meno ottusa che nell'istituto delle suore. Si pubblicava anche un giornaletto che veniva mandato ai benefattori nordamericani, soprattutto a coloro che avrebbero potuto diventarlo. Questo metodo di finanziamento che puntava sul sentimentalismo procurava e procura alti profitti. Basta osservare lo sviluppo dell'istituto in questi anni. Inoltre, ogni domenica o nelle altre feste comandate, venivamo mandati nei punti strategici della città a fare la questua. Si indossava la divisa del collegio, una tuta con una targhetta Villaggio del Fanciullo. Andavamo non solo in occasione di avvenimenti come la Fiera del Levante, ma anche rione per rione, negozio per negozio, con un'organizzazione capillare, rastrellando la zona. Era una cosa umiliante, mi vergognavo a morte, eppure dovetti andare con gli altri un paio di volte. Poi mi ribellai. Preferivo sopportare le sgridate e l'ostilità dei superiori. Non mi andava di fare l'accattone. Non potevo ancora capire allora il perché di questa mia rivolta. Ora so che era un rifiuto istintivo a piegarmi al fine educativo dell'istituto, che era quello di fare di noi dei deboli, dei vinti, degli schiavi, umili e senza alcuna dignità umana. Per questi educatori ero già un ragazzo difficile. Questa mia resistenza era un segno di quel che sarei diventato in futuro. A mano che la vita e il tempo mi avessero fornito nuove esperienze e una chiara coscienza della mia condizione proletaria. Avevo sentito parlare di questioni politiche per la prima volta all'epoca delle elezioni del 1948. Non ne capivo nulla, naturalmente, ma almeno questo fatto aveva creato una rottura nella monotona vita quotidiana. Eravamo tutti mobilitati per la salvezza del mondo cristiano. Quindi, via via che la tensione politica aumentava, aumentavano le litanie, i rosari e le preghiere. Il mondo cristiano vinse. Esultammo insieme ai preti e alle suore del collegio. Ci presentarono questa vittoria come il trionfo del bene sul male. Non fu difficile convincerci di questo, e per un po' di tempo niente riuscì a sradicarmi questa convinzione. Fu un maestro per primo a farmi venire dei dubbi, favorito anche dal fatto che nel frattempo ero cresciuto. Un giorno in aula parlò della resistenza, per ore, creando con le sue parole nella classe un'attenzione commossa. Fu per me un'impressione incancellabile. Non capimmo appieno il perché della resistenza, ma ci impressionò profondamente la commozione di quel maestro così burbero. Da allora non riuscii più a dissociare il termine partigiano da tutto ciò che vi è di più nobile, di più eroico. Il risultato fu la creazione di un mito. A poco, cogliendo qua e là qualche parola dai discorsi degli adulti o dei miei compagni più grandi, cominciai a collegare la parola partigiano con quella di comunista. Una volta avvenne una vivace discussione tra il prete e un mio compagno, uno di quei ragazzi ammirati dai coetanei per la loro sicurezza. All'origine vi era stata una critica del sacerdote nei confronti dell'abbigliamento di alcuni muratori che stavano lavorando in un edificio in costruzione. Il mio compagno replicò senza timore agli argomenti del prete. Anche suo padre era un muratore e un comunista. Per me egli cominciò a rappresentare l'opposto di tutto ciò che vedevo di ingiusto e di irrazionale nella vita del collegio e nella mia condizione. Mi resi conto per la prima volta che gli argomenti dei preti facevano acqua da parecchi lati, e soprattutto mi colpì il fatto che anche un ragazzo potesse seriamente controbatterli, che si scendesse dalla teoria alla realtà della vita quotidiana. Cominciai a sentirmi legato a questo mio compagno che portava nuove idee, più che al prete. Un giorno, credo fosse nel 1951, davanti al collegio passò un camioncino che faceva propaganda elettorale. Vennero lanciati dei manifestini e delle copie del Pioniere, il giornaletto dell'Associazione Pionieri d'Italia ispirata dai comunisti. Ne raccolsi velocemente una copia, attento a non farmi scorgere da nessuno. L'ordine dei preti era di bruciare tutto ciò che non fosse dello scudo crociato. Lo portai al mio amico, lo leggemmo insieme, di nascosto, sentii il piacevole brivido della clandestinità. Il giornaletto parlava di molte cose, tra l'altro c'era un racconto a fumetti di vita partigiana, bellissimo. Non avrei dimenticato il racconto, le descrizioni di imprese arditissime, quelle immagini di uomini in camicia rossa. Fu questo ragazzo che mi aiutò a superare anche altri momenti difficili, situazioni scabrose. Come capita in ogni collegio, le insidie ai ragazzini erano una cosa normale, quotidiana e sotto sotto tollerata. In particolar modo si distinguevano in questo campo i fratelli laici, più che i preti. Uno di questi ogni tanto mi chiamava nel suo ufficio e, fingendo di chiacchierare amabilmente con me, ne approfittava per farmi scorrere la mano sulle gambe. Non andava oltre, però. Probabilmente non osava, o gli bastava quello. Può darsi anche che una maggiore abitudine all'autocontrollo, alla disciplina imposta dall'appartenenza a un'istituzione così rigida, gli impedisse di lasciarsi andare, cosa che invece succedeva agli assistenti, ai fratelli, come si facevano chiamare, i quali erano molto meno controllati, con meno responsabilità e avevano anche meno da perdere in caso di scandalo. Un giorno ne buttarono fuori uno, un tipo viscido, tutto chiesa e azione cattolica. Non lo beccarono in flagrante, ma si era troppo sputtanato. La cosa non poteva più essere ignorata. Nel sottofondo, però, continuamente si intessevano manovre ed approcci. Noi eravamo troppo giovani e sprovveduti, e troppo bisognosi di tutto e di tutti per poter resistere. A me andò bene l'aver trovato quel ragazzo che mi diede subito le spiegazioni giuste e mi insegnò come reagire a certe carezze, a certi sguardi e proposte, in modo da scoraggiare subito il corteggiatore. Dopo circa 2 anni, grosse novità sconvolsero la noiosa e monotona vita collegiale. In una palazzina dell'istituto vennero a stabilirsi delle suore che avevano dei compiti domestici facilitati dalla nostra partecipazione ai lavori più faticosi. Vennero fissati dei turni che crearono una lotta senza esclusione di colpi per parteciparvi, per essere i prescelti. Naturalmente il motivo non era il desiderio di rendersi utili, ma di poter godere il privilegio della vicinanza di suora Adele, che con gli occhi di allora vedevamo deliziosamente giovane e bella. La vita del collegio ruotava sull'importanza di entrare nelle grazie di suora Adele. Fui molto fortunato perché ero solista nel coro della chiesa e recitavo nel teatrino interno. Avevo quindi maggiori possibilità di frequentare la bella suora. Un giorno io e suora Adele ci trovammo insieme in una stanza per finire un lavoro. A un certo punto la monaca si aggiustò la posizione di una calza, gesto che ritenni un provocante invito. Fu solo l'arrivo di altra gente a impedirmi di dichiararle apertamente il mio folle amore. Non mi lasciai vincere dagli impedimenti e decisi di esternarle il mio sentimento per corrispondenza. Fu nell'aula scolastica che mi accinsi a comporre la lettera, e tale era il mio impegno che non mi accorsi che un prete insegnante leggeva al di sopra delle mie spalle le mie ardenti parole d'amore. Fui condotto al cospetto del padre rettore e, prima di rivolgere la sua attenzione al mio caso, stava promettendo un posto a un raccomandato. Colse al volo l'occasione. 2 ore dopo mi trovavo su un treno diretto a casa dalla nonna. Nel marzo del 1953 raggiunsi mia madre a Torino. Arrivai in quella città con una valigetta di cartone, dopo aver percorso una strada già battuta da centinaia di migliaia di proletari meridionali. Mia madre abitava nel luogo in cui lavorava e quindi fui costretto a vivere con i miei zii che stavano alla barriera di Milano. Se Torino è la città più proletaria del nostro paese, la barriera di Milano è il quartiere più proletario di Torino e questo ne faceva un luogo di antiche tradizioni di lotta operaia. Lo spirito rivoluzionario si respirava con l'aria, come con l'aria si respirava il fumo delle fabbriche, lo smog delle industrie. C'erano ben 3 sezioni Fiat con le migliaia di operai in tuta, i rusconi. Le acciaierie, la fonderia, le grandi motori, dove è impiegato il meglio degli operai specializzati, quelli che fanno i baffi alle mosche. Cominciava a essere piena di terroni. Allora la barriera di Milano. Ricordo che c'erano interi e numerosissimi nuclei di famiglie di un paese pugliese che aveva formato la sezione della famiglia Cerignolese. Tutti ideologicamente rossi, tutti tenevano appese in casa un quadro col ritratto del figlio più importante di quelle terre, Giuseppe Di Vittorio. Si arroccavano nella sezione del PC per ritrovarsi più forti, non solo nell'unità, ma anche nell'identità della terra d'origine, dei costumi, delle speranze, delle esigenze. I terroni si erano quasi tutti piazzati in alcuni punti del quartiere. Certe strade avevano molta somiglianza con le strade del mio paese. Erano le vecchie strade, le vecchie case che circondavano Piazza Crispi, la piazza centrale della barriera, quella in cui si tenevano i comizi del PC, in cui al mattino c'era mercato, in cui ci si scontrava con gli sbirri. La stessa piazza che aveva visto le barricate contro l'intervento italiano nella Grande Guerra. Lì avrei dovuto abitare, in quella via Cuneo, a 100 metri dalla quale si trovano la Fiat Fonderia e la Grandi Motori. La via è costituita da due file di case, tutte uguali, enormi casermoni sporchi, pieni di gente, di bambini, di grida. Da una parte le fabbriche, al loro opposto l'incrocio con la Gran Via della Barriera, Corso Giulio Cesare. Questo corso conduceva in tal senso verso il centro della città, nel senso opposto verso l'autostrada per Milano. Una scritta sbiadita dal tempo e dalla pioggia. Viva Stalin. Via Cuneo 3bis, le case nere. Un blocco enorme, di squadrati casermoni, un'architettura triste e povera, per povera gente. Residenza di operai piemontesi, prima abitazioni di Napoli, poi c'erano anche veneti, siciliani, scale buie, cortili stretti, soffocanti, ballatoio col cesso in comune, le camere con un'aria sola. Via Cuneo 3bis, quarto piano. Lì c'erano i miei zii, marito, moglie e bambini. Piombai tra loro, certo non sconvolsi le loro abitudini, sia per la giovane età, sia per il naturale spirito di adattamento, sia per le prime raccomandazioni ricevute. «Fai attenzione», disse mia zia, «mio marito è comunista, sai, ha fatto il partigiano, tu vieni dal collegio dei preti, gente che lui detesta, è meglio quindi che non ne parli di queste cose, va bene?» Io naturalmente non avevo la minima intenzione di rievocare certi ricordi, né tantomeno di fare polemiche. Oltretutto provavo una grande e istintiva ammirazione per lo zio partigiano comunista. Cominciò così la mia nuova vita in un nuovo ambiente. Simpatizzai con mio zio, il quale, dopo poco tempo, mi portò con sé al Banfo. Il Banfo era la nona sezione torinese del PC. La sezione più importante della Barriera di Milano. Era in Piazza Crispi, mi ci trovai in mezzo e fu per me un contatto nuovo, vivo, che non capivo bene, ma che dentro mi trasformava. C'erano giovani ragazzi operai, i quali mi indicavano in un compagno un combattente della Resistenza, in un altro il dirigente dei giovani comunisti, nell'altro ancora il segretario di sezione. Non facevo molto caso a queste notizie, mi bastava trovarmi in mezzo ad altri giovani e sentire in quella spontaneità dei rapporti che ero qualcuno anch'io, degno di attenzione. Proprio in mezzo a quei torinesi che da principio avevo tenuto mi trattassero dall'alto in basso. La loro fraternità, dai più giovani ai più anziani, mi aiutava a crescere. Non mi sentivo più il piccolo terrone insicuro, senza una famiglia, perso in una città sconosciuta. Così mi avvicinai sempre di più ai compagni e tutto ciò mi parve naturale, spontaneo. Poi, ben presto, vidi l'altra faccia di Torino, la faccia dura, spietata, quella dello sfruttamento. Torino è proletaria, ma questo fatto ne implica un altro ancora. È la città dei padroni, la città della Fiat e delle centinaia e centinaia di fabbriche e fabbrichette dove si lavora. Si lavora sempre e il padrone fa la grana, viaggia bene in fuoriserie, alla villa, manda il figlio all'università e al manovale che viene dalla campagna del sud. Grana gliene dà poca poca, giusto per vivere, per lavorare, fare figli e tirarli su alla meno peggio. Nei casoni della città vecchia o della cintura, Rivoli, Chivasso, Venaria, quei quattro figli da farne altri quattro operai. E se poi uno di questi figli, intristiti da quella fanciullezza grama, si stanca e cresce ladro o puttana, non importa, va bene lo stesso. È la quota fissa che il proletariato deve pagare alla strada e alla galera. Non ci sono molte scelte nelle barriere, nei casermoni delle periferie, nelle case popolari, nei vecchi quartieri umidi e bui della Torino di Carlo Alberto, o continuare a tessere la maglia dello sfruttamento o arrivare poi a poco con la lotta e il lavoro di anni, macerando lo spirito e il corpo, a conquistare un po' di spazio, un po' di respiro. L'alloggetto in una casa nuova, la scuola media o il posto di commesso impiegato per il figlio più sveglio. Oppure si pianta lì subito, baracca e burattini, si manda a fanculo questa società di merda e si comincia dal Ferrante a Porti, Riformatorio di Torino, per finire in Corso Vittorio o a battere il marciapiede o alle Nuove, carcere giudiziario di Torino. Anche se nella stessa città, anche per me, non c'erano molte scelte, e quindi, pochi giorni dopo l'arrivo in via Cuneo, il problema principale fu quello di trovarmi un posto. Il posto e la possibilità di guadagnarsi il pane, di imparare un mestiere, di togliersi dalla strada, di mescolarsi agli altri, di diventare torinesi. La prima cosa da fare appena si arriva a Torino, appena si ha l'età o anche prima, è quella di cercare un posto di lavoro, uno qualsiasi, senza stare a guardare troppo per il sottile. E chi decide è il caso, altro che gli esami psicotecnici. Il caso fu per me la padrona di mia madre, il cui cognato era dirigente di una grande falegnameria, e così venni assunto, dietro raccomandazioni, nella ditta Guerrini come apprendista. Questa almeno era la qualifica ufficiale. In teoria si doveva imparare un mestiere ed essere pagati poco. In pratica venni messo a fare il manovale, ad aiutare gli operai alla sega a nastro. Facevamo serramenti, porte e finestre in serie per imprese edili. Lavoro pesante, monotono, 3.000 lire a settimana, poche, ma tanto per aiutare in casa. Da mia zia di soldi ce n'era sempre bisogno. Per un anno continuerai a mangiare polvere e segatura, poi cambiai posto di lavoro, sempre allo scopo di trovare una paga più alta, un lavoro più decente. Cambiai ancora. Alla fine capitai da un compagno che aveva una bottega artigiana. Ce ne sono tante a Torino di queste boite. Si lavorava duro, ma si imparava qualcosa. La paga non è molta, ma i rapporti operai-patroni non sono gerarchici. Si lavora insieme, si fatica insieme, poi il sabato si fanno i conti e sono sempre magri. Però ci sono parecchi tipi di boite. Quella in cui si tira avanti da un sabato all'altro, sempre in guerra con le cambiali e i clienti che non pagano le tasse e l'affitto e le previdenze sociali, e tutti succhiano, e alla fine si lavora 10 ore al giorno e la miseria resta. Poi ci sono quelle aziende in cui le cose vanno bene al padrone, e questi a poco si tira su, riesce a saldare i debiti, si toglie dalle tribolazioni torchiando i garzoni. Il compagno del PC che mi aveva dato lavoro dietro raccomandazione del segretario di sezione era uno di questi. Aveva la fabbrichetta, la villetta, un mucchio di torni, di frese e parecchi operai. Però pagava poco, anche se faceva il democratico e sbraitava in sezione che lui assumeva i compagni per carità di partito. Tirai avanti finché un giorno andammo insieme a mangiare in trattoria. L'ho detto che era un tipo alla mano, un compagno. Durante la pausa di mezzogiorno con gli altri operai, io mi portavo il mangiare da casa, dentro il baracchino. Mia zia lo preparava la sera prima. Andava bene tutto per l'appetito di quell'età, stimolato dal lavoro. Anche la pasta asciutta riscaldata e il baccan. Il padrone mi chiese se bevevo vino. Risposi di sì. «Madama, porti un quartino al ragazzo», ordinò ad alta voce. Il sabato, sulle 3.000 lire di paga, mancavano 45 lire. Sai, è per il quartino che hai bevuto l'altro giorno. Nei primi tempi a Torino voglio togliermi un desiderio che avevo fin dalle elementari: andare ad assistere a una partita di calcio in cui giocava la Juventus. In collegio a Bari avevo cominciato ad avere una forte simpatia per tutto ciò che riguardava Torino. Dove stava mia madre? Ne parlai alla zia, che mi accontentò, dandomi il denaro per la partita e per il tram. Durante la settimana aveva nevicato, la Juve giocava contro l'Inter. Lo stadio era pieno, come sempre, per un avvenimento del genere. Finì 2-2, doppiette di Lorenzi e Boniferti. Ma più che la partita, mi affascinava vedere tanta gente. Il vero spettacolo avveniva sugli spalti. Mi divertivo a vedere le persone diventare improvvisamente pallide o paonazze per un tiro mancato o una rite subita dalla squadra del cuore. Alla fine la solita ressa. Prima di salire sul tram controllai i soldi. Non li avevo più. Avevo perso il resto che doveva servire anche per la colazione. La zia aveva insistito tanto perché li prendessi. Controllai tutte le tasche e riuscii a trovare 24 lire. Mancava una lira per salire sul tram. Pensai di prenderlo lo stesso. Difficilmente il tramviere mi avrebbe fatto scendere. Poi mi vergognai e presi la decisione di tornare a casa a piedi. Ormai era sera e faceva molto freddo. Non ero ben coperto, senza cappotto. Ci misi molte ore a raggiungere la barriera. Trovai la zia preoccupata. Non avevo mai fatto tardi. Le scarpe non avevano tenuto in mezzo a tutta quella neve e ormai erano inservibili, sfondate. Non erano buone scarpe. Più volte ero scivolato. Finì con una solenne bronchite. Lo sballo per la Juventus finì quel giorno. Libri ribelli. Libri ribelli.